X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Beatrice Lorenzin, 42 anni, romani, dal 99 coordinatrice dei giovani di Forza Italia per il Lazio. Nel 2008 diventa deputata per il Popolo della Libertà. Con il governo Letta è ministro della salute in quota PDL, il giorno del giuramento al Quirinale porta anche la nonna. Riconfermata ministro dal governo Renzi, questa volta però corre col nuovo centrodestra. Aveva detto niente tagli alla sanità per 3 anni, Renzi aveva confermato e su questa base è nato il patto per la sanità. Adesso invece è alla presa con i nuovi tagli al sistema sanitario per 2 miliardi e 300 milioni in 2 anni, previsti da Padoan per pagare la sua quota degli 80 euro promessi da Renzi. Lei combatte, lotta, non ci sta e dice: qui si vogliono intaccare le prestazioni e se è così diano il ministero a un dirigente del tesoro. Ministro Lorenzin, uno sfogo? No, non uno sfogo, ma una puntualizzazione. Ha pensato di dimettersi? No, non ho pensato di dimettermi, ho pensato invece di combattere per spiegare che la politica sanitaria, la salute delle persone ha bisogno di una strategia. Ne parliamo, senta, ma intanto ci sarà battaglia oggi in Consiglio dei Ministri allora? Direi proprio di sì. Ma saranno tagli sugli acquisti? Se sono tagli sugli acquisti a me vanno bene, io l'ho già detto. E dove pensa di prenderli? Dagli sprechi, che ce ne sono ancora tanti all'interno della sanità, per esempio nelle lavanderie degli ospedali, nelle mense, nella gestione dei rifiuti, ma non si può andare a toccare i servizi primari alle persone. Naturalmente, ecco. Allora il patto delle regioni comunque muore prima di nascere, mi pare. Se non c'è la capacità di capire che può essere il Ministero della Salute insieme alle regioni a gestire questo risparmio, sì, è difficile che le regioni possano continuare così. Senta, lei però aveva detto che nella sanità si possono risparmiare 10 miliardi di euro da investire nella sanità stessa. È uno slogan bellissimo, però l'ha presa in parola, sono venute a prendere i soldi. Si possono fare veramente, ma ovviamente sono dettagli che derivano da delle ristrutturazioni e quindi non riesci a farlo in un mese, lo puoi fare in 3 anni, secondo me si può fare anche di più, perché il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di investimenti. Vabbè, Padoan ha vinto intanto. Ma non credo che sia neanche Padoan. Senta, ma lei quando incontra Cottarelli per strada cambia marciapiede? No, solitamente lo cambia lui. Ah sì? Carino. Senta, in attesa del Consiglio dei Ministri, intanto, Albertini di Roma, con lo scambio degli embrioni, lei deve affrontare un problema che neanche i filosofi della scienza come Sebastiano Maffettone riescono a dipanare. Io ho la fortuna di avere in dipartimento il professor Allen Buchanan, che è uno dei maggiori esperti del mondo di queste cose, e prima di venire ci ho parlato a lungo e entrambi, avendoci pensato tanto, non siamo riusciti a trovare una soluzione decente, né moralmente né legalmente. Il caso è complesso, non rientra nella dicotomia classica. Tutte le nuove tecnologie, dalla maternità surrogata alla donazione dei gameti all'inseminazione artificiale come questa, chiaramente derogano dalla coppia naturale sociale, ma in questo caso il caso è strano, perché non c'è una madre sociale e una naturale, sono due madri naturali in buona sostanza, e quindi chiaramente siamo al di fuori di ogni descrizione usuale. Ecco, ministro Lorenzina, abbiamo sentito, anche i filosofi si arrendono di fronte a questo problema. Torna in discussione la legge 40 sulla fecondazione assistita? Questo problema non ha una soluzione. L'unica soluzione possibile è l'amore di queste due mamme, e vedremo come andrà avanti. Come andrà a finire? La legge sulla fecondazione assistita non torna in discussione, bisogna invece applicare la norma. Qui nel Lazio sono mancate le procedure di sicurezza, è un fatto gravissimo e devono essere messe a norma la Regione Lazio. Ecco, senta, in diritto però finora almeno una certezza c'era, il principio che diceva mater semper certa est. Da oggi non è più vero neanche questo. No, questo non è più vero, perché con la legge eterologa, noi sappiamo con la fecondazione eterologa che potrà cambiare, quindi noi abbiamo una nuova frontiera, anche non solo dal punto di vista giuridico ma anche della concezione stessa della maternità. Beh. E questo è un tema molto delicato, certo, che dovremo affrontare con buon senso e con intelligenza. Senta, lei ha incontrato la coppia vittima dello scambio? No, non l'ho incontrato. Perché? Non ho avuto ancora modo di incontrarle. Io vorrei che fosse anche veramente preservata la riservatezza di queste coppie, che non finiscano per diventare oggetto di un caso mass mediatico che creerà ancora più problemi personale, naturalmente. Erano 5 le coppie che hanno impiantato impiantato gli embrioni quel giorno. Hanno fatto tutte le analisi? Hanno fatto tutte le analisi. È tutto ok? È tutto ok. Sono 2 le coppie dove c'è stato lo scambio, e purtroppo uno scambio dovuto proprio a una mancanza di rispetto delle procedure di sicurezza. E dove sono finiti gli altri embrioni? No, hanno avuto ognuno il loro percorso, diciamo, naturale. Chi ha continuato la gravidanza e chi no. E possono esserci altri? altri casi? Io spero proprio di no. Nella normalità, ma è sicura? Non posso essere sicura al 100%, però anche perché noi non abbiamo i referti ovviamente di tutti i protocolli, ah, però possiamo dire che è la prima volta che si crea una cosa di questo genere in Italia e speriamo che sia l'ultima. Senta, facciamo un passo indietro. È vero che lei ha saputo del caso leggendo l'articolo di Paolo Festuccia sulla Stampa? Sì, una cosa incredibile. Pazzesco. Ma perché dal giorno della denuncia del fatto alla ASL da parte della Copia nessuno ha parlato col Ministero? Qualcuno me lo dovrà dire, non solo a me ma anche ai nostri uffici legali, perché dovevano dare informazione immediata al Centro Nazionale. Ma chi doveva farlo? Sia la Regione che la direzione dell'ospedale. Senta, ma è avuto spiegazioni dalla Regione? No. No. Nessuna. Nessuna. E lei cosa ha fatto contro la Regione? No, io intanto ho chiesto al presidente Zingaretti di fare una cosa, cioè di ripristinare una procedura nei tempi dovuti nella Regione Lazio. E questo per il futuro. Per il futuro. Ma per il passato? Per il passato adesso attendo la relazione della Commissione. Senta, parliamoci chiaro. Lei ha chiesto le dimissioni di qualcuno a Zingaretti? Io ho chiesto a Zingaretti che chi ha sbagliato deve pagare. E chi è secondo lei? Questo ce lo dirà poi la relazione della Commissione. Che arriva fra quanti mesi? No, è una questione di qualche giorno. Ma è normale che finora nessuno si sia dimesso, secondo lei? No, non è normale. Non so se ci sono state delle sospensioni, almeno dall'esercizio della professione. Ma non lo sa o non me lo dice? No, non lo so proprio. Cioè, non le dicono niente praticamente. Ma sa, qui c'è l'autonomia delle regioni. Bella affare. Senta, è evidente che comunque queste procedure per la fecondazione assistita hanno degli standard insufficienti, se si possono fare degli errori del genere, al di là dell'errore materiale, del nome quasi simile, eccetera. No, lo standard in realtà è uno standard molto stringente. La legge era stata impostata proprio per dare un rispetto dei protocolli. Cioè, un po' come sa la camera, il registratore, quello sugli aerei. Quindi sì, tutti i passaggi devono essere la registrati. La scatola nera. Il problema del Lazio è che noi abbiamo l'unica regione in Italia in cui i centri non sono stati accreditati. Quindi è un problema di disfunzione della regione. Ma quindi Zingaretti deve fare una strage, insomma, più o meno. Io spero che non sia la strage degli innocenti, che no, mi sembra che sia già capitata. Sì. Deve fare un commissariamento ad acta e deve fare le ispezioni in tutti i centri, perché noi dobbiamo dare serenità e tranquillità alle tante coppie che devono e possono ricorrere a un sistema per avere figli. Ma Albertini, l'attività è ripresa? L'attività è ripresa. Con i soliti standard? No, con un controllo accurato delle procedure, perché in realtà abbiamo trovato una situazione buona dal punto di vista scientifico e tecnico. Sì. C'è stato proprio l'errore umano. Però ricordiamoci, senta, che una donna che ha cominciato una iperovulazione non la può interrompere, certo, deve poter andare no. fino al buon fine. Senta, Ministro Lorenzi, perché Albertini una fecondazione costa 2.000 euro al Sant'Anna, che ha scoperto l'errore, invece solo il costo del ticket? Ma questo dipende dalla gestione dell'ospedale per coprire le spese. Ma sono strutture pubbliche. Però in questo hanno autonomia. Possiamo dire che però 2.000 euro rispetto ai 20.000 che costa nel privato sono procedure molto costose. Beh, rispetto al ticket, al costo del ticket del Sant'Anna, del Sant'Anna un po' meno. Vede che ci sono dei margini, vedrà che li troverà. I margini per recupero ci sono. Li troverà. Senta, ma se fosse capitato a lei, cosa avrebbe fatto? Ci ho pensato tutti i giorni e ci continuo a pensare. Credo che se fossi stata la mamma che aveva in grembo questi gemellini, li avrei sentiti come miei a prescindere, perché sentire un figlio che ti cresce dentro è un'esperienza unica. E se fossi stata l'altra mamma, sarei stata disperata. Quindi c'è una completa comprensione umana di entrambe queste coppie, di queste madri, e credo che l'unica soluzione possibile sarà veramente un atto di generosità e di amore da parte di entrambe per il bene di questi bambini. Senta, Ministro Lorenzi, lei è stata ministro del governo Letta, adesso di quello Renzi, che c'è discontinuità fra loro o no? C'è una diversità di carattere, di atteggiamento. Ma in cosa soprattutto? Ma uno è più energetico, vivace e vitale, cioè Matteo. Enrico è molto più riflessivo e ponderato, quindi è una differenza caratteriale. La discontinuità di carattere, ma poi nella sostanza? No, io credo che da parte di Enrico era più il presidente delle larghe intese, e quindi proprio un presidente di mediazione. Sì. Mentre Matteo è un presidente che vuole di una maggioranza che vuole cambiare le cose nei primi 100 giorni, e questo è quello che me lo fa apprezzare. Vabbè, i tagli stanno dentro questa logica. Lei solo 3 mesi fa però diceva ci vuole un governo Letta bis con ministri renziani. Stava nella logica di Letta. Che cosa non aveva capito di Renzi? Non avevo capito le dinamiche del Partito Democratico. D'altra parte non è il mio partito. Senta, ma c'è qualcosa che l'ha sorpresa che non si aspettava di Renzi? Sì, non lo conoscevo e devo dire che la cosa che mi sorprende è che conoscendolo è proprio come appare. Mi dice un suo difetto? E adesso vediamo se mi fai questo taglio. Ah, è questo il difetto, ah, vabbè, ho capito, politico. Senta, Ministro Lorenzini, intanto lei l'altro giorno ha partecipato alla proclamazione di Alfano presidente del nuovo centrodestra. Era necessario arrivare a frasi come queste? Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi idioti inutili. Idioti inutili! Da troppi inutili idioti! Pensa anche lei? Penso di sì. Il Forza Italia è stata demolita nel suo progetto politico da un gruppo dirigente che ha sbagliato tutte le mosse. Senta, ma Alfano ha tradito Berlusconi oppure in politica si fa così, è lecito? Alfano non ha tradito nessuno, ma soprattutto non ha tradito i suoi valori. E in quel famoso dicembre tutti insieme abbiamo salvato l'Italia da un commissariamento. Vabbè, questo è quello che pensate voi. Ma lei ha paura? Quello che dicono i fatti. Lei ha paura che Alfano faccia la fine di fini? No, assolutamente. Perché? No. Perché? Non ci sono proprio le condizioni. Alfano sta costruendo con un gruppo dirigente giovane il nuovo centrodestra, non contro qualcuno. Fini era contro Berlusconi. Noi siamo per allargare il centrodestra, quindi, e ridare una prospettiva politica. Quindi per riallearvi con in Berlusconi? In questo momento non è possibile, non oggi, dall'atteggiamento domani, che loro hanno. Però comunque noi oggi stiamo lavorando sull'autosufficienza. Senta, ma mi dice perché un elettore moderato che abbia sempre votato per Berlusconi e decide di abbandonarlo per le sue ragioni dovrebbe scegliere Alfano e non Renzi, che è nuovo e moderato anche lui abbastanza? Renzi sarà nuovo, ma è sempre il segretario del Partito Democratico. Un elettore che ha creduto nei valori e in identità culturale del centrodestra deve poter ricostruire il centrodestra. D'altra sì. parte in Europa c'è il PPE, il PSE. Però se non vorremmo mica avere Renzi e Grillo. Renzi e Grillo, però Renzi l'accordo l'ha fatto con Berlusconi. Ha fatto un accordo per le riforme, secondo me è una cosa anche intelligente, ma prima si fa il percorso nella maggioranza e poi si allarga. Senta, non è andata così però. Senta, vediamo la fine. Ma all'inizio non è andata così, poi può darsi che alla fine vada così. Senta, Ministro Renzi. L'importante è il risultato. Sempre. Senta, a Torino c'è in corso una battaglia della scienza contro il metodo Stamina. Siamo all'epilogo o no? Spero che siamo veramente all'epilogo e che sia un epilogo in cui la scienza vince e vince per il valore e per la salute dei pazienti. Ecco, però il Tribunale di Marsala ha obbligato gli ospedali di Brescia, dove si pratica la cura Stamina, a riprenderla. Ma com'è possibile? Ma perché la prima riforma che noi dobbiamo fare è culturale in questo paese, per cui la politica faccia la politica, la scienza e la magistratura la magistratura. Però il consulente del Tribunale di Marsala che ha preso questa decisione è Marino Andolino, che è il vicepresidente della Fondazione di Vannoni. Ma è normale? Eh? No. Anche se il Tribunale di Torino ha definito il professor Vannoni un ciarlatano, a Marsala procedono. Ma questi sono i misteri del nostro paese, che forse poi qualcuno dovrebbe anche preoccuparsi di quello che accade a queste persone. Ma lei da che parte sta? Io sto dalla parte della verità scientifica. Che è chiara. È stata chiara dal primo comitato, adesso vediamo cosa dire al secondo. Però tutte le più grandi scienziati del mondo si sono espressi in modo molto chiaro e netto. Senta, Ministro Renzi, parliamo dell'Italia reale. Quella che è il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone. I 65enni sono arrivati a 12 milioni, i 75enni sono oltre 6 milioni. E l'incremento percentuale maggiore è oramai tra i 90 e i 95 anni. Ma chi se ne occupa? In questo momento se ne occupano solo le famiglie, se va bene. In prospettiva le famiglie così come le conosciamo non ci saranno più e quindi ce ne dovremo occupare noi e dovremo dare alle persone anziane, tra cui anche me stessa, perché sarò anch'io, farò parte di questa folla. Io faccio già. Dovremmo dare la possibilità di avere una vita dignitosa almeno quanto l'hanno avuta i nostri genitori. Sì, però queste sono parole bellissime, però è una situazione che può esplodere da un momento all'altro, né ne consapevole. consapevole. Consapevolissima, ed è il motivo per cui sto cercando di ristrutturare il sistema sanitario. Quindi spendere meno in prestazioni non appropriate e puntare più sul territorio e sull'assistenza domiciliare. Però intanto ci sono 1.200.000 badanti per fare questa assistenza domiciliare per chi può permettersi. Solo per chi può permettersi. Esatto. E gli altri? E gli altri purtroppo vivono situazioni di grande solitudine. Noi stiamo formando migliaia di infermieri specializzati che nel prossimo futuro dovranno fare questo lavoro. Però per poterlo fare dobbiamo ristrutturare il sistema sanitario. Ma si parla di dare un contributo economico a chi si prende cura di un anziano? È una strada? Questa potrebbe essere una strada, ma noi in realtà abbiamo già una rete sui territori pronta, a differenza dei paesi nord europei. Quello che dobbiamo fare è farla lavorare con razionalità e con un risparmio delle risorse, tra l'altro, molto risparmio. Ma poi deve cercare uno di questi assistenti che dice lei, dove va a cercarlo oggi? Dovrebbe andare dalle proprie ASL di riferimento. Qualcuno è in grado di fornirgliela e qualcun'altra no. Dovrebbe, perché sono poche che sono in grado. Più nel centro, ovviamente centro nord del nostro paese. Senta, nel nord Europa sono sempre più diffusi dei superfarmaci per ultra settantenni, farmaci molto buoni ma carissimi. Ma chi non può permettersi deve lasciar morire, eh? È quello che, la scelta drammatica che stanno facendo nel nord Europa anche per i trapianti. Nel nostro sistema questo è inaccettabile. Noi non possiamo avere... Cioè nel nord Europa si sta andando verso una sorta di eutanasia di Stato, diciamo. Esattamente, ma per i trapianti, per i medici, per i farmaci personalizzati. Ma oggi anche da noi c'è chi mi dice che, per esempio, il nuovo farmaco sull'epatite C si può dare ai giovani e non a chi ha poca aspettativa di vita. Io ritengo questo inaccettabile. E questo vale anche per i trapianti? Anche per i trapianti. Ma anche da noi? No, però c'è qualcuno che balena questa possibilità. Noi non possiamo percorrere questa strada. È una strada veramente che snatura la nostra stessa cultura umanistica. Dobbiamo invece risparmiare e reinvestire e probabilmente anche pensare nuove forme di assistenza anche integrativa sanitaria per essere vicino a una popolazione che invecchia. E poi, se mi permette Minoli, bisogna fare delle vere politiche per far ricominciare rinascere bambini in questo paese. A questo ci arriviamo, perché volevo parlare anche di questo. I tagli però, intanto l'abbiamo detto, saranno dolorosi, però è di pochi giorni fa lo scandalo degli accordi di cartello tra multinazionali per tenere alti i prezzi dei medicinali. Ecco, è difficile pensare che lì non si possa fare nulla. In realtà nella spesa farmaceutica in Italia sono stati tagliati circa 10 miliardi di euro in pochissimi anni. Allora noi dobbiamo pensare che ci sono i cartelli, c'è chi truffa, e deve essere punito. Adesso io ho presentato una nuova legge sugli off-label in Parlamento che ha passato ieri il primo vaglio. Cioè cosa vuol dire vaglio. Per fare... Vuol dire che in un caso come questo noi possiamo attivare una sperimentazione indipendente e cominciare intanto a dare il farmaco alle persone, quello che costa meno. E quindi siamo autorizzati. Invece ritengo che sul farmaceutico dobbiamo immaginare una cosa: da una parte abbiamo il prezzo più basso in Europa, quindi noi trattiamo i prezzi migliori, per questo c'è anche un mercato parallelo che c'è stata subito la cosa all'italiana. Sì. Dall'altra parte dobbiamo capire che l'industria farmaceutica produce l'11% del nostro PIL, ecco, e dà posti di lavoro. Quindi vero, tenere insieme le due cose. È vero, però rispetto all'industria farmaceutica e ai farmaci normali, non i superfarmaci per anziani ricchi, senta cosa dice il presidente dei geriatri italiani, il professor Roberto Bernabei. Le medicine metodologicamente vengono studiate in persone sotto i 70 anni con una monopatologia, ma non sono testate nella popolazione reale, vengono testate in una popolazione alien che ha la fortuna di essere sostanzialmente fintamente malata, per quello che ci riguarda. Cioè, ha capito, è inquietante questo. È inquietante, molto. Ha perfettamente ragione, e tra l'altro è uno dei motivi per cui la medicina personalizzata e i farmaci personalizzati costeranno sempre di più, perché sono fatti proprio su misura, sulle tue possibilità. Sostanzialmente stiamo tra superfarmaci per anziani ricchi personalizzati e medicini praticamente inutili per tutti gli altri. Non inutili, ma sicuramente rispetto a queste nuove tecnologie che abbiamo, stiamo parlando proprio di un divario enorme. Non possiamo passare da una medicina universalistica per tutti a una per censo. Questo è un bivio a cui ci troviamo. Non possiamo, però siamo a un bivio nel quale da una parte si potrebbe risparmiare tantissimo, perché se servono poco, e reinvestirle nella qualità. Infatti bisogna fare delle scelte. Io voglio scegliere, mi cosa devono dare le condizioni. Io voglio scegliere di ristrutturare il sistema sanitario, risparmiare 10 miliardi, reinvestirli in ricerca, in personale qualificato e rifare l'AIFA. Le vuole come... gestire lei, insomma, questi qua. Senta, dove c'è un problema di sanità e di sprechi, però c'è soprattutto, per ora, un problema di politica e di partiti che hanno occupato il potere. Ecco, la sanità delegata alla regione è stata una tragedia. È stata una tragedia soprattutto nella lottizzazione. Certo. Che, dobbiamo dircelo, c'è e continua a esserci. Quindi anche le soluzioni che sono state trovate sono soluzioni, come dire, sulla carta bellissime, ma in pratica... Tutte finte. No, insomma, non è che andiamo verso il top della qualità. Dobbiamo invece immaginare che nella sanità noi abbiamo veramente bisogno di persone di valore, a prescindere dalla loro appartenenza politica. Ecco, ma intanto cominciare a restituire la struttura ai medici non potrebbe essere un passo importante? No, cioè, chi ci capisce lo fa. Io direi che i manager devono farlo i manager. Sì, ma i medici possono imparare a fare i manager, mentre i manager e i medici non impareranno mai a farli. Su questo io non sono d'accordo, sono due livelli diversi. Dobbiamo dare a chi ha conoscenza scientifica e tecnica, dargli proprio la sua specialità, e chi invece deve gestire i conti in partnership ovviamente con la parte tecnica, no, ma in deve partnership poterlo alla fare. Pari, paritetica però, non sì, può sì, essere. Sì, però guardi, io le posso dire, noi abbiamo tanti casi di direttori generali solo tecnici o solo di un'altra parte. La verità è che quando ci sono dei veri buchi, arrivi, mandi un bravo manager, in 6 mesi ti risolve un problema di 20 anni. Senta, intanto i giovani non riescono ad entrare nella professione anche se specializzati anche all'estero. Senta questa testimonianza. Perché è tornato in Italia? Sono tornato perché io credo nel mio paese e credo che un paese che abbia speso 11 anni per formare un ultra specialista possa avere qualcosa in cambio. Io ho un contratto a tempo determinato ormai da 2 anni a questa parte che mi permette di fare il mio lavoro ma non mi permette una prospettiva. Quindi è sempre rimasto uguale lo stipendio? Assolutamente no, mi è stato decurtato al primo rinnovo del 20% e al secondo rinnovo del 6%, quindi un totale del 26% in meno. Beh, non è incoraggiante per un giovane. No, assolutamente no. Questo è frutto del blocco del turnover che ormai dura da tantissimi anni nelle regioni del Mezzogiorno, da quasi un decennio. E per risolvere questo problema ritorniamo sempre lì. Bisogna riorganizzare il sistema. Senta, quindi anche nella sanità bisognerebbe fare come nella pubblica amministrazione, seguendo la ricetta del ministro Madia, fuori 3 anziani... dentro un giovane super selezionato, è una strada? Nella sanità no, perché ci sono maestri, quindi bisogna stare un pochino attenti. Parlavamo dei manager. Parlo ovviamente dei tecnici, dei ricercatori, parlando della parte. Io parlo della gestione. La gestione si potrebbe fare, invece per quanto riguarda la parte scientifica, lì entriamo in un'altra sfera. È ovvio che ci sono tantissimi, i ricercatori per esempio devono essere giovani, la linfa degli IRCS, la linfa degli istituti scientifici, vanno dai 25 ai 31, 32, in tutto il mondo. Tant'è vero che la paura di molti istituti è quello di perdere i più bravi. Cosa che capita. Capita anche qui a Roma. Ma però se la popolazione invecchia, è vero che, lo dicevamo prima, che i bambini non nascono anche perché la crisi non lo permette. Come si possono sostenere le coppie che vogliono farli questi figli? Bisogna fare una politica fiscale a favore delle coppie con bambini. È un modello che va perseguito. Mi dice, accanto... politica fiscale cosa intende concretamente? Parlo così. Quello che abbiamo sempre detto in Italia e non siamo mai riusciti a fare, il quoziente familiare, dare strutture come gli asili nido e dall'altra parte informare anche le coppie di quella che è la curva della fertilità, che è una cosa che nessuno più sa. E cioè che si possono avere bambini agilmente fino ai 28 anni, un po' meno agilmente fino ai 35 e dopo di 20. Diventa veramente difficile. Senta, ma per esempio, intanto per dire cose concrete, per disoccupati, casse integrate, non si potrebbe esonerare dai ticket? Ma quello sì, lo stiamo prevedendo nella riforma che era sempre dentro il patto della salute. Sto patto della salute mi sa che oggi sarà una lotta all'ultimo sangue. Io spero che qualsiasi cosa succeda, insieme alle regioni continueremo a lavorarci insieme, perché il patto della salute è l'ultima chance per il servizio sanitario nazionale. Qualunque cosa succeda, ha già fatto un passo indietro nella lotta. No, io non lo faccio mai passi indietro, cerco sempre di farne 2 in avanti. Senta, equità nella sanità per lei cosa vuol dire? Dare la possibilità a tutti di avere accesso alle migliori cure. Senta, le faccio un'ultima domanda. Di tutto quello che abbiamo detto, tanto, Che cosa spera di riuscire sicuramente a realizzare entro il 2014, a prescindere dai tagli di oggi pomeriggio? Dare il farmaco dell'epatite C a tutti. Grazie. Grazie. Mix 24. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, il titolo del faccia a faccia con la Lorenzin? Cacciate i sordi. Cioè, non rubate. Anche. Pietrangelo, hai sentito? Pietrangelo oggi, certo, è in Sicilia, ci chiama dalla Sicilia. Hai sentito? Certo. Ho sentito. Il titolo da fare è questo: c'è solo un cancro, le regioni. Carina. E la scelta di oggi, Pietrangelo dalla Sicilia? Sì, sì, questo è il sentimento del Venerdì Santo. Io mi permetto di fare assaporare le note che al tramonto accompagnano la processione, in particolare a Leonforte, ma identica a Siviglia, a Trapani, a Lecce, a Sorrento, cioè dove la passione di Cristo diventa una processione di popolo e non viene appaltata ai Boy Scout. C'è solo il Boy Scout stavolta. In questo Venerdì Santo, la quota rosa, cioè Sara Tardelli, che cosa ci dice? Logico, sì, è logico, ma è tutto quello che so. Per ogni domanda componi un verso, non siamo soli in questo universo. Non siamo soli in questo universo. Sicuramente Mario dirà che sono melensa, ma no, come al solito me ne frego. Gandhi diceva: la grandezza di una nazione, il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui si tratta gli animali. E infatti ti tratta bene. Benissimo. No, mi trattate malissimo, sì. E non mi fai, voglio dire, sono contenta se mi paragoni a una bestiola. Uh-huh. E in Romania infatti c'è una ragazzina di 13 anni che si sta battendo per difendere i cani randagi. In Romania non è una questione semplice da trattare. No, meno male che non hai citato il Chad. Tu dici, no, la Romania no, per i cani è sufficiente. E quindi una piccola ragazza per un grande esempio di coraggio. Evviva! Mario, che cosa bolle in pentola? Andiamo, dai. Allora, vabbè, Rino Gaetano non te regge più, perché un po' io non regge più, diciamoci... Che cos'è che non regge più? Il dibattito politico. Beh sì, è un po' noioso. Dai, diciamoci la verità. Però, insomma, come va l'Italia? Ci sono sempre cose interessanti da vedere. Intanto, oggi l'Istat dà i numeri degli ordinativi e del fatturato dell'industria, secondo me in febbraio, è da guardare, insomma, non saranno certamente buoni, ma... quelli sono, e su quelli bisogna poi cercare di proiettare il futuro. Poi ci sarà un consiglio dei ministri adesso, stato convocato poco fa, sì. Perché c'era un'indecisione se farlo di mattina o nel pomeriggio, sì. Pare che sia stato convocato adesso, fine mattinata. Devono varare... Aspettavano la Lorenzin, certo, per dargli la buona notizia. Che gli dirà, caccia i sordi. lei invece li taglieranno. Una bella lotta, perché credo che sia la ragioneria di Stato che, certo, che blocca. Certo, no, vabbè. 2,4 miliardi di tagli è una cosa abbastanza pesantuccia, però qua c'è da finanziare gli 80 euro di sgravio. È stata diffusa ieri una bozza, non so se è il caso di darla nel dettaglio, comunque è un bonus che prevede a regime i famosi 80 euro, per ora in realtà saranno 50 nel 2014, diciamo che questo è il succo della faccenda. Vabbè, perché valgono per 6 mesi, 8 mesi, solo fino a dicembre, certo. Sì, normale. Vediamo che cosa esce poi nel decreto. Bisogna capire, come al solito, come coprono la spesa, cioè se sgravio, il bonus, non nasconde da qualche parte, perché sai, i contabili questo lo sanno fare bene, un'altra tassa dall'altra, capito? 800 24 00 24, il numero verde, l'SMS 349 238 66. Allora siti qui. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Beato lui che ci riesce. Questa è La poltrona per due, è un bellissimo film. No, c'è una cosa bella, noi abbiamo dato tante volte qua Gordon Gekko, no? È il tuo idolo. È il mio idolo. C'è la dura vita del trader, ma si dice guadagnano tantissimo. Sì, in parte. A Wall Street... No, adesso dobbiamo difendere i poveri trader. No, chi difende? Io sto dicendo... Ecco, sto dicendo... A Wall Street hanno perso tutti un sacco di soldi. Tranne i trader. Di Morgan Stanley. Di Morgan Stanley. Sono gli unici che hanno ricavi in salita del 9%. Ecco, tanto per darti un'idea, JP Morgan Chase, che ha la divisione di trading più grande, più importante, ha perso il 21%. Insomma, per loro sarà una buona Pasqua. Salamini. Sarà povera. Urge trovare voti a Paolo Guzzanti. No. Sì, celebre giornalista, candidata alle europee per Forza Italia, ha già fatto i conti. Allora, sua moglie non può votare per lui, è cittadina americana. I figli grandi, la Guzzanti in testa, manca a parlarne. I figli piccoli sono piccoli. Insomma, è una tragedia. Mentre meglio vanno le cose per Ilenia Cichino, la tronista di Uomini e Donne, candidata da Berlusconi nella circoscrizione delle Isole. Ha aperto in Vietnea, a Catania, il comitato elettorale, e io la sto giusto andando, no? Certo. E ha nominato il comitato dei garanti. Certo. Allora, al fianco di Ilenia ci sono Deborah con l'H Falsaperla, poi Sue Ellen Pappalardo, poi c'è Jessica Zappalardo, poi c'è Noemi Leanza e infine il rappresentante... Ma guarda che questa è pubblicità politica, elettorale, non si può fare. Ma bisogna dire le cose, anche perché vi manca il pezzo grosso, ve lo do, il pezzo importante. In rappresentanza della comunità, ora qua è complicato dirlo, dunque, LGBT, insomma, c'è Iano Uvuppicello. Vabbè, senti. Senti, dice Claudio da Torino, dovevate ricordare al ministro di rivedere il film Il medico della mutua con Alberto Sordi. Effetti, qualcosa c'era. Certo. Allora, come Mario, si chiama? Il dottor Terlizzi, chi era? Non mi ricordo più il nome. Sì, il dottor Terlizzi, sì, sì. Vabbè, senti qua. Allora, ho fortuna, Carmina Burana, perché ci vuole fortuna per trovare lavoro, come sanno tutti. Sempre. Do un modestissimo consiglio, chi lo vuol seguire lo segua. Non concentratevi sul digitale, sulle nuove tecnologie, sul mito dell'high tech, perché non danno lavoro, ne danno poco. Vi faccio un esempio. Facebook capitalizza 150 miliardi di dollari a ieri e occupa 6.000 persone. Equivalenti americani, di borsa americana. General Motors, 54 miliardi di capitalizzazione, 212.000 persone impiegate. Beh, abbiamo sentito TripAdvisor, per tutta l'Italia ne ha 4 di persone, 4, non sono tante. Allora, state attenti. 200 a New York. Con i totem tecnologici, il mito e così via. Vi dico che le ricerche in America... E valgono anche molto per l'Europa, state attenti, dei prossimi lavori del futuro sono l'assistenza sanitaria, il cibo, le vendite e le costruzioni. Beh, l'assistenza sanitaria abbiamo sentito il ministro, ci saranno investimenti. Allora, concentrate gli studi su questi settori, lasciate perdere cose che non avranno un boom tecnologico, perché tutto è sostituito dall'automazione. Vendite, costruzione e assistenza sanitaria. Sono queste le cose che andranno. Bevi la Coca-Cola che ti fa bene. Bevete Coca-Cola, uno direbbe, no? Questo è un hit fantastico di Vasco Rossi. E in realtà io non voglio parlare della Coca. Non vuoi parlare della Coca? Allora basta. No, voglio parlarti della Pepsi. Ah, va bene, così noi siamo par condicio. Esatto. Allora, vola è un settore molto importante, lo sapete bene, sono trend globali, cioè bibite che sono bevute in tutto il mondo. Ci sono risultati importanti del primo trimestre, un utile a 1,2 miliardi di dollari, pensate, in ascesa del 13%. Il fatturato è di 12,6 miliardi. Voi pensate che si venda la bibita gassata, concorrente della Coca-Cola, cioè che la Pepsi sia stappi e via? No. No, perché i due terzi del fatturato vengono dallo snack. Salamino! Eccolo lo snack. Si va sempre di corsa, marciare per non marcire, si diceva nei tempi beati. Insomma, Nick, il mitico Nick Cosentino, ha avuto le chiavi del parco della Reggia di Caserta per fare la sua corsetta. E la cosa ovviamente crea un imbarazzo, curiosità, però vogliamo dirlo una volta per tutte che una sana corsetta ci ha regalato anche quello spettacolo straordinario, il filmato che Piazza Pulita ha ricavato dell'intervista proprio col fiatone. Detto ciò, una dedica a Nicola Cosentino che sta anche consumando la sua rottura con Berlusconi, ormai tutti rompono con Berlusconi. Rompono tutti, sì. E quindi mi dedico questa canzone. Oggi nasceva Oreste Lionello, ha aiutato grandi attori americani come Woody Allen, Peter Sellers, Gene Wilder a fare breccia nel cuore di noi grazie alla sua voce. Marina Milone racconterà la sua storia. È che io al gruppo ho già dato troppo di stacco. Eso sì. Ma mica 20 chilometri, sa? Non era perché io stavo davanti a loro dietro. E che sono scemo? Sì, io il distacco, io me lo prendo, mica angelo do. Me lo prendo in coda, hai capito? E quelli sono ragazzi e lasciale correre. No, te vuoi dire, ad esempio, che io mi metto a fare la volata per vincere il gran premio della montagna. Oh, la montagna sta in salita, sa? Mix 24. In verità, io vi dichiaro che la frequentazione quotidiana dei musei, delle biblioteche e delle accademie, cimiteri di sforzi vani, calvari di sogni crocifissi, è per gli artisti altrettanto dannosa che la tutela prolungata dei parenti per certi giovani ebri del loro ingegno e della loro volontà viziosa. Per i moribondi, per gli infermi, per i prigionieri, sia pure, ammirabile passato è un balsamo dei loro mali. Beh, è un canzoniere difficilissimo oggi, per me è difficilissimo. 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666, vediamo se qualcuno indovina. Intanto, professore, buongiorno professore. Lei l'avrà già indovinato, no, immagino. questa volta no. E è che troppo cosa... difficile, l'ha detto anche lei. Mi è sembrato. Senta, intanto il canone dov'era ieri sera? Allora, per te Mario, diciamo, scusi, Mario, sì. L'hai visto tu la televisione? No? Io ieri notte non ho niente. Visto televisione. Allora, lo dica in musica. In musica. Io vorrei fermare il mondo su quest'attimo stupendo. Tu sei colei che cercai e mai. Beh, professore, no. È un altro canzoniere questo. Un altro canzoniere, questo era Marcello Mastroianni in Ciao Rudy, la famosa commedia musicale di Gianni Nei. E dove l'hanno data? Su quale rete locale? Da nessuna parte. Ah. Il fatto è che ieri sera ho scoperto che Gabriel Garco non è Marcello Mastroianni, neanche quando è nudo. Beh, però non è che ci voleva uno scienziato per capirlo. Beh, professore, la paghiamo non per questo. Allora, il problema invece è serio, perché io speravo che il canone fosse anche su Canale 5 una volta, perché Canale 5, insomma, ha avuto la sua parte nella storia della fiction italiana, sia alle origini, sia, pensate, un fenomeno come Elisa di Rivombrosa. Mi aspettavo che ci fosse in questo Rodolfo Valentino, interpretato da Garco, qualcosa che faceva tornare Canale 5. E invece è stato deluso. E invece è proprio deludente, è proprio deludente, è un fotoromanzone, tutti recitano come se fossero in un fotoromanzo. Vi ricordate come definiva Saviane, il famoso critico dell'Espresso, queste fiction che erano un po' eccessive? Li chiamava fumeggiati. Fumeggiati. Ecco, questo è un fumeggiato, non uno sceneggiato. E purtroppo ci siamo trovati di fronte a questa cosa ieri sera. Ah beh, allora il canone dov'era? Ieri, ma guarda, sa che stavo osservando una cosa, siamo in una settimana santa, un po' di feste, no? Comincia una serie di feste. Siamo a Venerdì Oggi, Santo, venerdì stasera Santo, ci sarà la Via Crucis alla televisione. Poi il 25 aprile. Stavo notando una cosa molto grave, secondo me. Nessuna rete e nessuna emittente celebra più con i suoi programmi la festività. I palinsesti sono normalizzati e questo secondo me è abbastanza grave. A parte la Via Crucis di stasera, c'è una prevalenza della ferialità sulla festività. Non è, né le feste religiose, Pasqua, né le feste civili, sono andato a guardare i palinsesti anche fino al 25 aprile, hanno più nulla che segni, come invece accadeva una volta quando il canone veniva pagato al servizio pubblico e il servizio pubblico si occupava di questo. Nessuno celebra più la festa. Questo è gravissimo. Questo è grave. Da un punto di vista culturale, perché una società che non celebra anche di identità, feste, di è identità. Una società appiattita. Ecco, professore, intanto devo dire che a Giorgio da Bari, che ci chiede, dice: peccato, ho sentito la ministra solo nella parte finale, dire, approfitto per dire che i Faccia a Faccia sono tutti scaricabili dal sito radio24.it. Podcast, intere puntate. Ma tutte le puntate. Facciamoci un po' di pubblicità. Allora, vuoi un po' di musica? Un po' di musica. No? Ma dai. Questo è un gruppo fantastico, sono gli Arcade Fire, hanno fatto colonne sonore meravigliose. Questo si chiama porno, ma non c'è niente di porno. Senta, professore, a lei piace la musica di Mario? Sa che mi sento vecchio. Ah, si sente vecchio? Questo è un ragazzino. Questo teenager. Una volta ero un teenager. Io non arrivo più. Insomma, allora ci dà qualche consiglio, almeno per la Pasqua, delle cose da vedere? No, niente, tutto appiattito. Io continuo a consigliare per il sabato sera la serie su Maigret franco-svizzera con un grande attore Bruno Kremer. Bene. Perché spezza l'uniformità del sabato sera. Va bene. E poi lunedì, Pasquetta, per chi non ha in programma. Veloce, perché siamo in chiusura. Un film che l'anno scorso ebbe grande successo, Benvenuto Presidente. Grazie professore, tanti auguri, buona Pasqua. Oggi la storia è dedicata all'inconfondibile Oresto Vianello, ricordarlo è la figlia Alessia Leonello in un'intervista a cura di Marina Milone. Allora Simone, questa Australia come sta andando? C'hai delle novità, mi pare? Sì, ho iniziato la mia esperienza, diciamo, in farm. Perché tu stavi in farm per acquistare i punti per avere il permesso, no? Per avere il visto. Esatto, devi e quindi 88 giorni per ottenere poi il secondo visto. E in farm che cosa fai adesso? Sono finito praticamente in una riserva naturale dove c'è una scuola all'interno. Io do una mano in questa riserva naturale. È bella, Bellissima, è una foresta enorme con alberi giganteschi. È una riserva naturale e c'è una scuola, cosa c'è? Tu cosa fai? Sì, faccio di tutto, da girare per tutta la proprietà con il quad, raccogliere la legna, rami, foglie, a fare giardinaggio o a pulire i pullman scolastici, qualunque cosa ci sia da fare. Senti, ma quante ore lavori al giorno lì? Lì faccio 4 ore al mattino, dalle 9 alle 1 e mezza. E ti pagano? No, no, è volontariato. Ah, è volontariato perché è obbligatorio che sia volontariato? No, può essere o volontariato oppure può essere un lavoro normale in una fattoria o raccogliere la frutta dove ti pagano. Però quello ovviamente è più difficile da trovare perché c'è più gente che cerca. E i soldi per vivere dove li trovi allora? Mi riuscito a mettere d'accordo con loro e gli ho detto che da venerdì a domenica dovevo tornare in città per continuare a lavorare sempre ai soliti posti dove lavoro io, al bar. Cioè al bar, ti basta lavorare tre giorni alla settimana per vivere? A parte che io non ho spese perché non pago da mangiare e non pago neanche l'affitto perché dormo sul divano e non mi fa pagare l'affitto. Però poi mi faccio 30 ore in neanche tre giorni di lavoro. Ma è una follia. È abbastanza. E quindi tempo per gli amici, per conoscere l'Australia, per crescere nella tua esperienza, niente? Per ora no. Ma scusa, non era meglio a Torino, quando stavi a Torino? No, meglio qua, però... Qualche rimpianto? Questi giorni bisogna farli. Cioè, ti sta facendo bene questa esperienza? Esperienza lavorativa tantissima. Ma tu segui quello che sta succedendo in Italia o no? Ogni tanto quando ho tempo sì, sto guardando, vedo che è sempre più incredibile ma vero, è sempre più confusionale. Vista dall'Australia l'Italia è in confusione, insomma. Anche vista da altre parti. Anche vista da altre parti. Simone, tu, lo capitoliamo per i nostri ascoltatori, sei un ragazzo che è andato via da Torino perché lavoravi alle banche di frutta e verdura di tuo padre e tua madre, no? Sei andato per fare un'avventura, ma quanto pensi che possa durare questa esperienza? Sinceramente non lo so, io per tutelarmi, tra virgolette, comunque in questi giorni infami faccio perché se volessi prolungare, in ogni caso li ho già a mia disposizione, quindi posso prolungare. E allora ci risentiamo la prossima volta, ok? Ci risentiamo la prossima volta. Ciao. Vivo. Ciao Simone, sarai vivo. E prima di chiudere, la vincitrice del nostro canzoniere Mara Tomatis, Marinetti, il manifesto futurista, è vero Pietrangelo? Sì, è vero, è quello. Allora applauso, un Feltrinelli.